Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Mancano poche ore ormai al momento in cui la Fondazione Fiera Milano svelerà il destino dei padiglioni 1 e 2 del Portello. Parliamo di un'operazione di riqualificazione urbanistica importante per la città, oltre 57.000 metri quadri, tra l'altro a poche centinaia di metri dalla sede del Sole 24 Ore da cui trasmettiamo. E la scelta, almeno questo dicono insistentemente i rumors, si è ormai ridotta a due progetti in competizione. Da una parte il nuovo stadio del Milan, in realtà una sorta di mega centro commerciale di cui lo stadio occupa la parte centrale con l'aggiunta di un liceo dello sport e di un albergo. Dall'altra parte il progetto del Magnete. Parliamo di un centro polifunzionale dedicato alle tecnologie del futuro, una sorta di parco tematico urbano per mettere in scena e sperimentare le città del futuro. Il progetto presentato da Prelios è stato messo a punto in collaborazione con gli studi di architettura Atelier Traldi e Caruso Mainardi e con Ablab, società di consulenza strategica nel campo delle innovazioni, di cui abbiamo in linea il titolare, Nicola Zanardi. Buonasera Nicola. Buonasera. C'è un dato da cui secondo me dobbiamo partire, che riguarda l'approccio alla riqualificazione. Da una parte infatti si mira a demolire tutto l'esistente, voi invece avete in mente un altro scenario. Sì, noi pensiamo che occorra mantenere il più possibile le radici di quell'area e per cui abbiamo scelto di costruire sul costruito, cioè praticamente non andremo a demolire ma a smontare anche con un sistema innovativo anche in questo approccio, per cui avremo un cantiere cosiddetto a secco che faranno in modo che il cantiere non abbia polvere. Cioè non spaccate, smontate la struttura esistente. Smontiamo esattamente soprattutto la struttura centrale creando una grande corte e quel volume andrà invece in testa dove adesso c'è il timpano del Portello con un albergo. Questo farà sì che anche la piazza a fianco, che peraltro ospita la sede del Milan, sia congiunta direttamente a quella parte. Da qui la parola magnete, nel senso che ci sono tre lati, si avrà okay. Invece che ferro di cavallo, che era poco magnete è un po' meglio, insomma, più interessante. Esatto, e nello stesso tempo perché deve attrarre attività ricorsive. Chiarito questo aspetto, che cosa ci si troverà dentro, speriamo, forse, in questo magnete? Un software della Milano che verrà. Ci sarà un parco tecnologico interattivo che è dedicato ai ragazzi, diciamo, fino ai 18 anni, dai 6 ai 18 anni, una ludoteca per i bambini più piccoli, una galleria di arte digitale connessa con il parco e poi un'altra parte, diciamo, legata alla musica e alla creatività, per cui ci sarà una delle scuole di Ricordi Music School, ci saranno altre cose legate alla musica, degli spazi per provare anche per attori e poi stiamo chiedendo alla fondazione di poter utilizzare un domani la sala da 1500 posti del centro congressi. L'idea nostra è che quella diventasse una sorta di polo musicale della città, considerando che l'offerta spazia dai grandi spazi, poi ci sono degli spazi molto piccoli. Questa sarebbe una zona mediana dove si possa soprattutto... Cioè a Milano ci sono o spazi molto grandi o spazi molto piccoli, non ci sono vie di mezzo per la musica, no? Esatto, e soprattutto c'è poco spazio per provare, per certo. Perché l'idea di tutto questo polo deve essere un'idea legata al fare, cioè non si va a vedere ma si va a fare. A fare. Ecco, c'è anche l'idea di farci un progetto di sanità preventiva, sì. Perché lì che cosa vuol dire? Ma sanità preventiva nel senso che sempre di più stiamo parlando di un'età che aumenta progressivamente esattamente di 3 mesi, 2 mesi e mezzo all'anno e sempre di più le malattie sono croniche, per cui sì. Sempre di più l'assistenza sarà a domicilio. Noi abbiamo due punti, uno appunto di riuscire a mantenere sempre più nel proprio ambito, nell'ambito delle relazioni familiari il malato, il paziente che ha malattie croniche, due di alfabetizzarlo nel senso di dargli qualche strumento perché possa per esempio a leggere i dati, mandarli al suo medico senza muoversi da casa. Cioè e questo secondo noi è una chiave molto interessante per tutta la città, non solo per il quartiere. Cioè questa chiave dell'alfabetizzazione che qui adesso è espressa in chiave diciamo sanitaria, in realtà è un po' forse la chiave di tutto sì, il progetto, diciamo, no? Che abbiamo il tema della programmazione code.org sulla ludoteca, abbiamo il tema dell'alfabetizzazione digitale per tutte le età, dove l'alfabetizzazione sarà modulata secondo del tipo di input che serve. Va bene, grazie Nicola Zanardi, in bocca al lupo a questo punto. Grazie a voi, Crepi, grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.